24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Io ho una statua in marmo di Andreotti, è quella che il male 30 anni fa mise al pincio, no, la conservo io proprio, me la accarezzo. Io non ci credevo, io non ci volevo credere, non ci volevo credere! Vincino, buongiorno! Buongiorno! Io non ci credevo, ma Vincino, quando ce l'ha detto una settimana fa, veramente è in casa la statua, il busto di Giulio Andreotti, che ogni tanto s'accarezza, ieri ce l'ha mandato in foto, potete vedere anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan, oppure lo metteremo se vuoi anche sul sito di Radio24.it, Vincino, se ci dai l'autorizzazione. No? Assolutamente. Vicino col busto d'Andreotti, ogni tanto se la accarezza. Voglio salutare subito anche Alessandro Giglioli, buongiorno. È tutto vero Giglioli, ce l'aveva detta così, ma invece è vera. Ma adesso, dato il valore culturale, deve denunciare la sovrintendenza e permettere l'ingresso dei visitatori nella sua magione. Non lo so. Di venderla prima, la batterà all'asta da Sotheby's, da Christie's, non lo so. Dai, guarda, c'ha il busto di Giulio Andreotti che si accarezzava. Apriamo il Parlamento, perché ce la devi spiegare subito questa, Vicino, subito ce la deve spiegare. Il caffè volentieri a tutti quanti. Qua Nicole Minetti ci offre il caffè. Forza gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo Vincino, ma com'è possibile? Perché hai un busto di Giulio Andreotti? Allora ti spiego. Nel 77 io ho fatto un libro e alla fine di questo libro c'ero io che guardavo il mare e faceva Andreotti che viene, Andreotti che va, che delusione la satira politica, no? La storia di Andreotti è la storia del fallimento più grande della satira politica in Italia. Noi per tanti anni abbiamo tentato in tutti i modi, sin dal 73 abbiamo raccontato Andreotti mafioso, no? In ogni modo. Mi ricordo una discussione con un grande giornalista che mi diceva, vedi, tu puoi dire che Andreotti è mafioso con due disegni, io non posso scriverlo questa cosa qua. Ho detto, questo è il vantaggio di noi disegnatori, soltanto che disegnarlo, come in tutti i modi, lui rimbalzava completamente. Sì, sì. Con il male nel 78 praticamente c'erano 20-30 intelligenze formidabili riunite, una capacità di fuoco immane. A un certo punto abbiamo creato il Festival dell'umorismo nero interplanetario, abbiamo pensato una statua, disegnato una statua, fatta scolpire la statua di marmo, perché noi facciamo le cose di marmo, di marmo vero, da uno scultore vero, di quello che faceva i sette re di Roma per gli americani, no? E adesso di contrabbando. Ce l'hai, no, tu. L'abbiamo portato al Pincio, dov'è il posto migliore del Pincio. No? È venuto Benigni, ha fatto Benigni ed è arrivata la polizia con il commissario Pompò, tessera della P2 non so quanto, la polizia ha interrotto tutto, fermato. E tu sei scappato col busto. Non sono scappato, è andato a prendere il busto. Sono caduti in tre poliziotti perché pensavano che era di gesso, invece era di marmo, no? Se lo sono tenuti in prigione per 8 mesi. No, cioè noi Andreotti, in prigione! L'hanno messo in prigione, Giulio! E quando con gli avvocati l'abbiamo fatto rilasciare, gli abbiamo fatto fare un giro di Roma in carrozzella, fotografandolo tutti i suoi posti. E adesso ce l'ha a casa, Vincino. Vabbè, comunque, questa è 24 mattino, l'avete capito, con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricelli in regia, e vabbè, avete capito, insomma, parliamo oggi di Giulio Andreotti, partiamo da qui. Giglioli, quel disgraziato di Vincino ha fatto anche codesta vignetta in prima sul Foglio: Andreotti è morto fino al 1987, il resto è prescritto. Eccolo lì, Giglioli, subito le polemiche. Perché Vincino mente quando dice che Andreotti è la sconfitta della satira. I satiri hanno giustamente mangiato per un trentennio, io me la ricordo quella copertina del male, ero giovane. Tu no, Alino Milan, eri proprio forse bambino in fascia. Ma che, insomma, guarda che comunque in fascia. Comunque me la ricordo. Non lo so, dai Alessandro, è una trasmissione di attualità o di storia moderna questo? Andreotti, lasciamolo a... Ho capito, ma dai, oggi... Lasciamo a History Channel, Andreotti. Qualsiasi giornale dedica almeno le prime 15 pagine oggi ad Andreotti. Appunto, intanto fanno Nitto Palma, Presidente della Commissione Giustizia, la Finocchiaro, Sacconi... C'è tutto il congresso di Vienna della Seconda Repubblica. Parliamo di Andreotti. Andreotti, io concordo con quello che ha detto Nando Dalla Chiesa, cioè la storia non lo assolverà, è un problema degli storici. Una brutta bega per gli storici. Allora, visto che Vincino ha citato Benigni, sentiamo questa di Benigni, dai. Erano lì che sedevano a scrivere queste cose, ci hanno messo 18 mesi, un anno e mezzo per scrivere questo. Con una lingua meravigliosa, c'erano tanti presidenti della Repubblica che poi sono diventati, c'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè, lui sta dappertutto, stava pure allo Statuto Albertino, c'è chi l'ha visto dietro a Mosè scrivere gli 10 comandamenti, sta dappertutto. Vabbè, questo era Benigni. Vincino, che dobbiamo dire? Vabbè, passiamo oltre. Io devo dire questa cosa qua, secondo me, allora, lui era della generazione dei Kennedy, sì. Kennedy è stato eletto con i voti della mafia. Ecco, Kennedy, come dire, lui era di una generazione che ha fatto la guerra, una guerra terribile, in cui da una parte c'erano i nazisti e dall'altra parte c'erano i stalinisti, e in mezzo gli americani e gli inglesi che tentavano di difendere quel poco di libertà che c'è. Per cui c'è una generazione che ha visto delle cose terribili, ha fatto delle cose terribili, e la storia poi alla fine le ha assolti in un modo o nell'altro. Eppure io ieri vedevo Paolo Cirino Pomicino, l'ho vista a Piazza Pulita, Giglioli, non so se hai visto come combatteva, come rispondeva punto su punto a tutti. È un fatto quasi più affettivo che politico, tutta la sua carriera è legata ad Andreotti. Abbiamo visto anche il personaggio di Cirino Pomicino, abbiamo raccontato anche nel film di Sorrentino Il Divo. Io non sono tanto d'accordo con Vincino, penso che il assolverli sulla base di una generazione, sulla base di un attaccamento agli americani, diciamo così, chi si porta nella tomba così tanti segreti, su tanti omicidi, su tante stragi, su tanti rapporti con la mafia. Ma la Costituzione l'ha fatta lui o no? Anche... Sì, l'ha fatta lui insieme a tanti altri. Devi fare il percento, no? L'ha pure disattesa. Ma siamo stati in grado di trovare delle prove serie contro di lui sulla mafia? Ma come? Beh, è stato Andreotti perché gli ha dato da mangiare per tanti anni in senso metaforico, cioè facendoci satira. No, non è vero, io lo odiavo Andreotti, io lo volevo morto Andreotti. No, dai, adesso lo volevo. Facevo satira per ammazzarlo Andreotti, guarda. Quando dico che è un fallimento della satira, è perché vuol dire che noi per tanti anni abbiamo massacrato uno e non siamo riusciti a farlo cadere. Lo esalti, questo forse. Ma allora non lo esalto affatto. Ma no, non è che lo esalta, però ne hai questo rispetto così, dai, un po'. E poi alla fine, certo, sì. Poi alla fine, quando vedevo cialtronate contro il bacio di Rina, ma come dire, questa è la pazzia più imbecille del mondo. È stata una sentenza, vedi, un po'. Però è stato... Credi al bacio di Rina, Giglioli, tu intelligente credi che Andreotti va a baciare Totò Rina? Ma lasciamo stare il bacio. Il bacio delle prime pagine dell'Espresso, delle cose di tutti i giornali, ma stiamo scherzando. Però effettivamente, adesso, c'è stata una sentenza, dice Giglioli, ed è vero. Per cui ma le sentenze non sono un cazzo, scusami, le sentenze sono una mediazione. Aspetta, Vincino è partito. Ma tu credi alle serie, la storia, la vita, la cosa la fare sempre, la verità la sentenza. Sentenze le fanno, ma quanto mai? Mancano i margini di discussione. Vincino, fai replicare a Giglioli, sennò ti devo buttare fuori dal bar, come si fa? No, per carità, non buttiamo fuori nessuno, però Vincino invece del caffè deve dargli la camomilla stamattina. Ma c'ha il busto lì. Lo scalda molto, forse come tutti i preti spretati, no? Che siccome l'ha contestato per anni, adesso si appassiona per difenderne la memoria. Visione su Andreotti è un pochino più sfumata, credo che complessivamente è stato un personaggio negativo della nostra Repubblica, credo che sia difficile per chi vuole un paese un po' più civile esaltare la memoria di un uomo che è stato concretamente collaborativo con la mafia per tanti anni, credo che ci si sia portato dietro un sacco di misteri, lui stesso ha detto per alcune cose che ho fatto meriterò l'inferno, però non ci ha detto quali. Dopodiché io ho altri miti in politica, se vicino a Andreotti come mito, forse Giglioli non è che ha come mito Andreotti, lo ha solo come busto, mi dolgo molto, diciamo. Ma dov'è il busto in questo momento, Vincino? Qua di fronte a me, guarda, nel piccolo giardinetto cortiletto che ho davanti, e di fronte a me i cani vanno a cacare davanti. cioè Lollo dei Cani l'hanno preso come un po' un mito, devo dire, non lo so, forse è una mia supposizione. No, adesso ti faccio la foto ora e te la mando, dare delle cacate del busto, che lui ha una sua dignità, però perché di marmo, insomma, non è che, cioè io quando vado per dire alla Camera o al Senato e vedo quei busti Cairoli, tutti delinquenti erano per me. Non c'era uno nella storia d'Italia che non sia stato un delinquente. Tutti i capi di governo vanno all'inferno. Tutti i capi di governo vanno all'inferno e hanno fatto cose terribili tutte. Vabbè, sentiamo. Ma io spero di non arrivare all'età di Vincino rotolandomi in questo nichilismo. No. Sentiamo l'autoironia di Andreotti. Prendersi un po' in giro da solo fa molto bene per non montarsi la testa, per non darsi delle arie e per non credersi veramente un uomo superiore. Io mi diverto tanto a non credermi un uomo superiore, perché non lo sono, fra parentesi, quindi, ma però se mi guardo in giro non ne vedo tanti. Eccoli, vabbè, Andreotti. Allora andiamo a sentire il traffico, poi parliamo di cose un po', beh, insomma, un po' più odierne, ma più odierne di questa. Adesso Giulio Andreotti, poi da domani non se ne parlerà più poi così tanto, eh? 24 mattino. Ma questi buffoni non finiranno mai di recitare questa pantomima. Io dico, vogliono risparmiare questi disgraziati, e questo chirichetto ci mette la bellezza di 40 più 10 fra sottosegretari e viceministri. A fare che cosa? A mangiare, a rubare soldi. Disgraziati maledetti, che gli venga un colpo a tutti, a loro e alla progenie. Alessandro, ma è possibile che ogni governo abbiamo una bambolina? Avevamo la Minetti, adesso abbiamo un Biancofiore. Che bello, che favola, cosa saprà fare? Io vorrei sapere quale nome ha ispirato il presidente del Consiglio Letta a nominare due sottosegretari come Castiglione e Miccichè. Ma siamo proprio nella munnizza. Ma no, Alessandro, ma come si fa? Avevo un'opinione ottima della Chieng, ministro delle pari opportunità, e mi propone Balotelli testimonial. È come se facessimo Berlusconi testimonial del Papa Francesco. Hai capito, no? Rallentiamo! Arrabbiati una volta, torniamo, qui non fischia, non canta più nessuno, siamo tristi, bisogna tornare alla balera, al camerone, porca vacanza, mon ladron. Adesso io mi consolo ascoltando Claudio Villa. Vabbè, è tornato Jean Martin con Claudio Villa, siamo con Vincino noi, con Direttore del Male e con Alessandro Giglioli dell'Espresso e il suo Piovono Rane per seguirlo. Che dobbiamo dire delle cose attuali? Partiamo da qui, così ci introduciamo al tema Grillini che volevo sottoporvi. Ieri al minuto di silenzio di Andreotti c'è stata una cagnara, un po', no? Proteste. Al Senato. Voglio ricordare il senatore. Quando si è tentato di fare il minuto di silenzio c'era un motivo di regolamento, di contestazione, non lo so, per cui ha iniziato a gridare durante il minuto di silenzio. Vergogna! Parlamentare, a partire dall'assemblea costituente di governo. Bene, urla, le sentite sotto, era la vicepresidente del Senato. No, i grillini, perché volevo sottoporvi questa. Allora, Giglioli, c'è una polemica sui grillini, ieri Repubblica l'ha anticipata, sulla diaria che avrebbero votato, la diaria che avanza, quella che non è rendicontata. Che fare? Secondo Grillo va restituita, secondo molti dei grillini non si riesce a vivere, cioè proprio a vivere a Roma con tante spese, e quindi bisognerebbe tenersela chi se la vuole tenere. Non è che i grillini verranno un po' inchiodati sui loro stessi cavalli di battaglia? È un po' sì, nel senso che questo tetto che ti sono dati inizialmente di 2.500 euro netti massimo che entrano nelle loro tasche, il resto deve essere o restituito o speso per motivi politici, è effettivamente un tetto molto rigido. D'altro canto, sulla base di queste opzioni hanno conquistato molti consensi adesso. Io l'ho detto fin dall'inizio, nelle mie varie polemiche anche online con Grillini, cioè non ha molto senso imporre per tutti una roba del genere. Cioè, io penso che se uno guadagna 3-4 mila euro con un lavoro privato e vuole mettersi al servizio del paese, dovrebbe essere messo in condizione di guadagnare 3-4 più o meno mila. Lo stesso quando... Se il principio non si, non si arricchisca, ma neanche si impoverisca. Con dei, esatto, con dei tetti in alto, con dei tetti in basso, con delle plafond in basso, rendere la cosa un po' più elastica, pulita, perfetta, ma un po' più elastica, sennò effettivamente c'è il rischio che molte persone valide che magari vorrebbero mettersi al servizio del paese veramente non lo facciano perché vanno a prendere la metà. No, ma sta cosa è strana, perché ecco, l'elasticità, ma Vincino non si vive con 2500 euro a Roma al mese? Allora, si potrebbe anche vivere con 2500 euro a Roma, non è questo. La casa. No, ma è il problema che questi qua, che i quali secondo me la metà non guadagnava assolutamente 2500 euro, ma molto di meno, no? Arriva là, si trova tutti questi soldi da un giorno all'altro, e come dire, ma beh, loro gli unici, mentre sono attorniati da senatori e deputati che si prendono tutti 18.000 euro, tutti interi, loro gli unici, e devono restituirli e poi pagare le tasse per tutto il pieno, no? Una cosa assurda, e come dire, poi è come le caramelle davanti. Ma avevano accettato quelle regole, però. Quindi avevano accettato quelle regole, era una chiacchiera, dai, è come dire, uno accetta, uno ha fatto un buona cosa, e diamo, non è che. Rispettare. Ma come? Cioè, voglio dire, ma loro sono quelli che si piccano, giustamente, e dire noi andiamo ma lì. Ragazzi, stiamo parlando di gente che ha preso 50 voti, no? Cioè, 50 amici, e si è trovato deputato al Parlamento. Che, no, ma questo sì, vabbè, ma l'altra che c'è Giglioli? Che vuoi? Stiamo parlando di 160 persone, sì, dentro di tutto, c'è dentro. E la persona per bene, il mascalzone, l'avido, io un po' ne conosco anche quelli che conosco. Esattamente, la metà è mascalzone, tre quarti avido e ma cinque sono onesti. Vedo che questa sei è la media italiana. Insomma, magari le percentuali non sono esattamente quelle che conosci tu, ad ogni modo... Come tre giornalisti, no, metà è mascalzone, intendo sono cose, e tre sono onesti, io e tu, e Milan, e basta, no? Va bene, io credo che ci sono molte persone che effettivamente, specialmente quelli che stanno da fuori Roma, sono arrivate qua con spirito... giacobino, se non montagnardo, poi si sono accorte che 2500 euro se non c'hai la casa e quindi devi prendere in affitto, a Roma è un casino. Un casino, sì. Io qua, Giulio Andreotti ci ha rubato tutto il tempo, volevo solo chiudere con un sorriso. Noi qua i tre onesti, io, Giglioli, Vincino, tutti gli altri sono dei farabutti, anche Miriam Lucchetti è onesta, anche Carmelo Lauricella in regia è onesta, tutti gli altri farabutti. Allora, lo sapete che c'è una giornata mondiale per tutto? Per tutto, oggi Repubblica riepiloga le 253 giornate. Vincino, c'è la giornata mondiale per la salvaguardia delle rane, il 28 aprile. Il 14 maggio, tra 7 giorni, è la giornata mondiale della risata. E quindi tutti si svegliano. C'è la giornata nazionale dell'aquilone. C'è la quando è il 14 maggio? Sì, tra 7 giorni. E allora ci sentiamo, no? Eh sì, certo, sicuro. Il 29 maggio c'è la giornata nazionale del respiro. Ah! Poi, ma la migliore, ma non lo so, l'ONU, le cose. Il 7 giugno è la giornata mondiale contro le carrozze trainate dai cavalli. Vincino, tu sai che a Palermo ci sono a tuttora, sì, come mezzo di locomozione, però no, io da bambino mi ricordo che andavamo, invece del tassi si prendeva la carrozza con quando c'era la manifestazione anche dei sindacati sinistra, sì. Quelli del PC arrivavano in carrozza. Vabbè, e comunque poi c'è il 26 ottobre, con questa vi saluto, la giornata nazionale di GNU Linux e del software libero. Questa non è affatto una stronzata. Ho buttato la bomba atomica in chiusura. Ce la spiegherai la prossima volta, Giglioli. Grazie, ora il giornale radio. Par Milan Radio 24, questa breve poesia, stranzeme culet nama bote, e così sia. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sì. Siamo qui a leggere i giornali, allora, cari ascoltatori, sono le 7:22 minuti e 30 secondi in questo istante. Se vi siete aggregati ora, ben arrivati. Oggi parleremo di questa polemica alle 8:15 sulla cittadinanza, lo ius soli, lo ius sanguinis, le polemiche per le parole del ministro Cécile Kyenge. Io lo pronuncio così, non Kyenge, Kyenge, mi piace più all'africana, Kyenge. E parleremo, con noi ci sarà Magdia Cristiano Allam, che ha detto si deve dimettere. E poi ci sarà con noi anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Parleremo di questo anche con le vostre telefonate. Allora, che ne pensate di questo dibattito sulla cittadinanza per i bambini nati da stranieri che risiedono in Italia? Intanto i giornali in edicola, andiamo a leggerli. In questo martedì 7 maggio, ovviamente, è tutto Andreotti. Non c'è giornale che non dedichi almeno le prime 10, 12, 15 pagine alla scomparsa di Giulio Andreotti. Andreotti, il simbolo del potere, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Andreotti, misteri del potere. La Stampa, Andreotti, potere e misteri. Il Giornale, Andreotti muore, vive l'odio. Il Messaggero, Andreotti, una vita al potere. E poi il Fatto Quotidiano, Andreotti, il cinismo al potere. Berlusconi fu perseguitato come me. Avvenire dà una speranza. Andreotti, ora è solo luce. Il Manifesto, o missis est, con la foto di Andreotti. Il Secolo XIX, il vizio del potere, e c'è la foto di Andreotti. Gli unici quotidiani che non aprono su Andreotti sono il Sole 24 Ore, che apre su Consob, chiede più poteri contro il rischio illeciti, l'Unità, CIG e Giovani, arriva al decreto, e Libero, Berlusconi obbligato a sostenerlo, Letta, ultima spiaggia PDL. Ma insomma, sarà una rassegna stampa su Andreotti style. Che dire, però voglio partire dalla polemica che ancora ieri è stata scatenata da Repubblica sulla questione del Movimento 5 Stelle e della diaria di parte, cioè una delle voci che compone lo stipendio del parlamentare, c'è l'indennità e poi c'è la diaria che può arrivare fino a 8.440 euro. Perché? Perché ieri Repubblica ha fatto sapere che il Movimento 5 Stelle hanno fatto un sondaggio interno ai parlamentari per capire che fare di quella parte della diaria che non viene spesa, se restituirla o no. Tra l'altro Repubblica denuncia, insomma, dopo aver fatto quest'articolo, l'attacco di alcuni del Movimento 5 Stelle che accusano il quotidiano di averli voluti screditare. Oggi Annalisa Cuzzocrea, che ieri ha tirato fuori questa notizia, torna su questa notizia, che poi è almeno una pagina su tutti i giornali: la rivolta della base grillina sulla diaria, fate come tutti. Pagina dice tutti come tutti del Movimento 5 Stelle, non come tutti gli altri parlamentari. Pagina 19 di Repubblica, una riunione a mezzogiorno per parlare della talpa. Un post di Roberto Fico contro Repubblica, rea di aver raccontato cose che non avrebbe dovuto sapere, la rabbia degli attivisti che sui blog chiedono ma insomma quanto prendete di stipendio. Al centro del dibattito c'è la diaria, che può arrivare fino a 8.440 euro. C'era l'obbligo di rendicontare tutto e qui la prescrizione rimane ambigua. Quello che non si documenta va restituito oppure no? Nella mail inviata da Grillo e Casaleggio la settimana scorsa si invitavano i parlamentari a identificare delle onlus a cui devolvere l'eccedente e quindi a restituire. I 163 deputati e senatori ne hanno parlato nel loro forum interno e la maggioranza ha scelto invece per la libertà di coscienza, cioè chi vuole può restituire, chi invece non vuole no. Fatti salvo i 2.500 euro devoluti obbligatoriamente a un fondo di solidarietà, gli altri potranno decidere se tenersi di e rimborsi oppure no. Ecco, da qui la polemica, questa notizia, il Movimento 5 Stelle, qualcuno accusa Repubblica ci vuole screditare, altri giornali oggi ci si buttano a pesce, il Secolo XIX, stipendi da restituire, grillini spaccati e rivolta web, la Stampa con Flavio Amabile, la diaria non si tocca ed è subito rivolta dai simpatizzanti, l'Unità con Tony Ghiop, prima rivolta contro Grillo, per la linea no, per la diaria. diaria. Libero, i grillini si ribellano a Grillo, ci teniamo la diaria. Mentre il Fatto Quotidiano con Paola Zanca racconta Grillo prepara la gogna per chi non molla i soldi. Racconta il Fatto la resa dei conti arriverà prima di venerdì. Grillo e Casaleggio caleranno su Roma per parlare a muso duro con i loro eletti in Parlamento. Sui soldi non si scherza. Chi ha intenzione di non restituire la parte di diaria non rendicontata potrebbe finire alla pubblica gogna. Questo racconta il Fatto Quotidiano, che ricorda il codice di comportamento, cioè si restituiscono 2.500 euro dell'indennità, sul resto non rendicontato. I 5 Stelle si erano affidati, i guru dei 5 Stelle si erano affidati alla coscienza degli attivisti del movimento, e la maggior parte degli attivisti ha deciso appunto di tenere libertà di coscienza. Ora si racconta anche la testimonianza raccolta all'interno del Movimento 5 Stelle, qualcuno dello staff che dice al Fatto: ma lo sai cosa vuol dire vedersi accreditare 20.000 euro tutti d'un colpo? Qui c'è gente che non aveva nemmeno un lavoro, comincia a pensare che non devi che devi rifarti il guardaroba perché non hai vestiti adatti ai nuovi posti che frequenti, poi c'è da rifare il guardaroba delle mogli, dei mariti, non ne esci più. Il potere del denaro, effettivamente, per uno che magari non ha mai avuto un posto di lavoro, primo mese, pam, accreditato sul conto sui 20.000 euro. Sono cose che potrebbero anche far perdere la testa. In ogni caso, vedremo come va a finire questa vicenda. Ovviamente nel Movimento 5 Stelle se ne discute, gli altri partiti si tengono tutto, però gli altri partiti nessuno aveva detto di voler restituire la diaria. Voglio, prima della pubblicità, raccontare questa notizia che riguarda la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Sapete che di recente c'è stata una polemica perché su qualche sito, poi subito sequestrata, è apparsa la foto, in realtà un fake, come si suol dire, cioè una foto fasulla di una nudista spagnola proprio completamente nuda, che somigliava di faccia a Laura Boldrini. E allora qualcuno ha messo sul posto dicendo: ma sarà mica Laura Boldrini che fa la nudista? Ovviamente era una foto fasulla, ma sono stati ritirati subito i siti. Ma c'è un indagato: Boldrini insultata sul web, indagato un giornalista. Si tratta di un ragazzo, credo di 22 anni, si chiama Antonio Mattia, nei guai per alcune foto osè, come racconta Grazia Longo sulla Stampa. Dice che no, non volevo offendere la terza carica dello Stato, no, certo non è lei una che attira simpatia, comunque vorrei capire perché nessuno si indigna di fronte alla pornografia dilagante su donne di destra come la Gelmini, la Santanchè, la Carfagna, e invece sono venuti a prendermi. Ho accostato due foto, quella della Presidente della Camera Boldrini e quella di una donna nuda, l'ho fatto sul mio profilo privato di Facebook, risultato: questo uomo, anzi non di 29 anni, non è di 49 anni, Antonio Mattia, giornalista vicino al movimento di estrema destra Ordine Nuovo, così racconta la Stampa, è stato indagato per diffamazione, così anche sul Secolo XIX, finta Boldrini desnuda, indagato un giornalista. È stato il primo a postare sul profilo Facebook una delle foto taroccate con la finta Laura Boldrini, racconta Domenico Lusi sul Secolo, si ritrova indagato. Insomma, la polemica sempre corre sul web. Fate attenzione, cari ascoltatori. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, orientarsi oggi tra le tante pagine dedicate alla scomparsa di Giulio Andreotti è davvero impossibile. Troverete di tutto, racconti, interviste. Le parole più gettonate sono potere, certo potere è quello che è la parola più associata ad Andreotti, ma anche misteri, mafia, certo i processi per mafia. L'uomo dei misteri, l'uomo, il divo inafferrabile, titola per esempio il Manifesto a pagina 4. Comunque orientarsi non è facile, soprattutto perché ogni quotidiano dedica almeno, io ho visto i quotidiani generalisti, le prime 15, 16, 20 pagine in alcuni casi alla scomparsa di Giulio Andreotti. Vi racconto per esempio quello che scrive Massimo Franco, la testimonianza, Massimo Franco che è andato a casa di Giulio Andreotti. Ha il solito doppio petto blu presidenziale, se non fosse per il rosario nero che gli avvolge le mani intrecciate sul grembo e perché sdraiato sdraiato sul letto vestito di tutto punto con gli occhi chiusi potrebbe quasi sembrare il Giulio Andreotti di sempre. E sto leggendo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ma il piccolo presepe vivente che lo circonda stavolta non è nella sua stanza da letto per ascoltare le battute al curaro, le perle di buonsenso romano papalino, le tre bombole a ossigeno accostate alla parete raccontano giorni di sofferenza. E il senatore a vita Emilio Colombo, vecchio alleato, avversario in decine di congressi democristiani, si fa un segno alla della croce che non è solo un saluto a lui ma il commiato a un'epoca della storia d'Italia. Così comincia l'articolo di Massimo Franco, che è entrato proprio nella casa di Giulio Andreotti. Racconta, c'era anche la signora Livia nel momento in cui Andreotti ha chiuso gli occhi, ma per fortuna, signora Livia, cioè la moglie, ma per fortuna non si è accorta di nulla. Anche adesso alle 5 del pomeriggio, mentre un silenzioso via vai di amici e mondi tramontati viene accompagnata a salutarlo per l'ultima volta, la moglie in cucina in compagnia della cognata forse non capisce quanto è successo. I figli vogliono che non si accorga che suo marito Giulio se n'è andato a 94 anni. Questa è la cronaca, che poi è anche un ricordo, pagina 2 e 3 del Corriere, di Massimo Franco, di quello che è stata la parabola politica di Giulio Andreotti. Certo, ci sono tanti articoli legati alla questione dei suoi processi, i suoi problemi giudiziari. Attilio Bolzoni racconta, per esempio, su Repubblica, a pagina 6, dal bacio con Totò Riina al processo del secolo, assolto ma restò un'ombra. Scrive Bolzoni: qualcuno disse pure che in un imprecisato giorno di un imprecisato anno gli aveva messo tra le mani l'immaginetta della Madonna dell'Annunziata, la santa protettrice dei mafiosi, e che lui davanti a misteriosi padrini aveva ripetuto proprio quelle parole: come carta ti brucio, come santa ti adoro, come brucia questa carta deve bruciare la mia carne se tradirò la cosa nostra, cioè il giuramento. Non era soltanto, come si vociferava, un amico sul quale potevano sempre contare, era molto di più, era la stessa cosa, era uno di loro, è punciuto, è punto, fece sapere il 4 marzo 93 il pentito Leonardo Messina Giancarlo Caselli, appena sbarcato in Sicilia dopo le uccisioni di Falcone e Borsellino. Per i Picciotti era lo zio ed era tutto per loro. Su questo si costruì il maxi processo, un processo che Andreotti seguì quasi tutte le sentenze. Tra l'altro c'è un'intervista anche a Giancarlo Caselli, che oggi è procuratore capo a Torino, viene intervistato da Repubblica, premette, intervistato da Paolo Griseri: un uomo che muore merita sempre rispetto e pietà umana. Lo vidi per la prima volta in Puglia nel 1964, quando prestavo servizio militare. Al termine di un'esercitazione ci passarono in rassegna su una jeep varie autorità, tra cui Andreotti. La seconda volta che lo vidi fu al processo di Palermo. E racconta sulla famosa sentenza per la quale si dice Andreotti venne assolto. Caselli risponde: non è assolutamente così. La storia di Andreotti scagionata è una pagina non bella nella vicenda politica e giornalistica italiana. Noi portammo a processo il senatore Andreotti in base a plurimi elementi di prova, in particolare dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Mannoia, che narrò di due incontri, di cui uno era stato testimone oculare, avvenuti in Sicilia tra lo stesso Andreotti e Bontade. Incontri che avevano per oggetto, come scritto nella sentenza d'appello confermata in Cassazione, la discussione di fatti gravissimi in relazione alla delicatissima questione di Piersanti Mattarella. Insomma, racconta un po' tutto il processo, la assoluzione, non assoluzione, l'assoluzione in parte per una certa parte prescritta per quegli stessi reati, ma avvenuti in un tempo per cui era sopraggiunta la prescrizione. Insomma, si dibatterà ancora giorni, mesi, il grande statista o uomo dei misteri, il divo inafferrabile o il grande Belzebù, l'uomo che è stato il capo per tanti anni della Democrazia Cristiana ed è stato uno degli statisti più importanti d'Italia, uno dei padri costituenti, o l'uomo anche dei depistamenti e depistaggi dei grandi segreti che porterà con sé nell'aldilà. Se ne discuterà, come ha detto Giorgio Napolitano, il giudizio lo darà la storia. Certo, oggi troverete interviste di tutti i tipi: Paolo Sorrentino, il regista che l'ha immortalato, uno straordinario Il Divo, che racconta come incontrò Andreotti, poi dice si arrabbiò quando vide il film. Ciarrapico, che sul secolo XIX fa una intervista dicendo: per lui comprai la Roma senza saper nulla di calcio, altro che Belzebù, ha fatto solo del bene. Anche se dice Ciarrapico il più grande democristiano non è lui ma è sempre Silvio Berlusconi. Ma insomma, trovate di tutto e di più su Giulio Andreotti. Andreotti, Andreotteide, oggi sui giornali, e potete davvero sbizzarrirvi. Passiamo alle cose più concrete, nel senso legate alla realtà di tutti i giorni, tanto da domani di Giulio Andreotti si parlerà sempre meno sui giornali. Allora, ieri il premier Enrico Letta era a Madrid, ha incontrato il premier spagnolo Rajoy, ha rilanciato sempre sul tema unico, quello del lavoro. Il lavoro giovanile, tra l'altro racconta l'Unità oggi in prima pagina, e poi ci sono gli articoli a pagina 2 e 3 che sulla cassa integrazione sui giovani è pronto il decreto, racconta Massimo Franchi a pagina 2 dell'Unità. Nel primo decreto IMU, CIG e giovani, questo è allo studio anche il ministro dell'economia Saccomanni, un decreto legge che rifinanzi gli ammortizzatori sociali, che preveda le prime misure per dare lavoro ai giovani, è il primo provvedimento effettivo del governo Letta che riguarderà la vera priorità del nuovo esecutivo, come ha detto il premier, vale a dire il lavoro. Questo è nell'ottica di Letta, che ieri ancora ha detto nel Consiglio europeo prossimo bisognerà puntare molto sul lavoro giovanile, rilanciare il lavoro giovanile. Se l'Unione europea darà risposte non ci sarà alcun rischio per l'ordine pubblico. Ancora chiede subito atti concreti, e tra l'altro i dettagli sono nell'articolo di pagina 14 del Sole 24 Ore. Marco Mobili e Marco Rogari raccontano sotto il titolo Saccomanni, presto il pacchetto giovani. L'approvazione del DEF da parte del Parlamento è il primo tassello di un mosaico che sarà seguito a breve dal provvedimento sull'IMU, sulla CIG in deroga, che se possibile conterrà le prime misure contro la disoccupazione giovanile. Ovviamente non ci sono ancora dettagli. Ci sono più dettagli riguardo all'IMU. L'operazione dovrebbe far recuperare un impatto contabile di circa 3,54 miliardi per le urgenze, di quasi altrettanti per il rinvio al 2014 dell'aumento IVA, quindi si prospetta il rinvio dell'aumento IVA per la copertura delle altre spese indifferibili, il tutto a netto delle eventuali misure sull'occupazione giovanile, che comunque nella prima fase dovrebbero essere a costo zero. Si ragiona su cosa? Sulle agevolazioni fiscali per le assunzioni dei giovani. Però certo, forse già in settimana ci potrebbe essere un primo decreto, se no settimana prossima. Sempre l'IMU è sullo sfondo. Cosa c'è soprattutto di incognita? Quello dei rimborsi, come racconta Gianni Trovati a pagina 15 del Sole 24 Ore, sempre, cioè se si sospende l'IMU, che fare dei rimborsi già promessi ai comuni? Questo è un po' il tema. Si prospetta anche l'idea, togliendo e sospendendo l'IMU sulla prima casa, che possa aumentare l'IMU sulla seconda casa. Potrebbe essere questa una soluzione, cioè i tassi alla fine, il bilancino deve sempre dare la stessa cifra, e quindi togli di qua ma aggiungi di là, è una delle ipotesi. Oppure i comuni potranno aumentare, chi non l'ha già fatto al massimo, le imposte locali. E sta di fatto che, insomma, quando hai tu una coperta da una parte o dall'altra la tiri, o ti si scoprono i piedi o ti si scopre la testa. Eccoci qua alle 7:49 minuti. Allora, tiene banco a livello politico sempre la questione giudiziaria di Berlusconi, perché ieri, come racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera pagina 13, la sesta sezione della Cassazione in una manciata di minuti ha respinto la richiesta della difesa di Berlusconi di spostare i processi diritti TV Mediaset e Rubi da Milano e spostarli a Brescia. Berlusconi, i processi restano a Milano, ma la difesa chiederà un altro rinvio. Le sentenze dovrebbero arrivare attorno a fine maggio, e tra l'altro qui bisogna capire la reazione di Berlusconi. Leggendo i giornali, due giornali diversi, uno vicino a Berlusconi, vale a dire il Giornale, e uno non certo vicino a Berlusconi, ben lontano da Berlusconi, Repubblica, la reazione sarebbe opposta. Secondo Repubblica, la rabbia del Cavaliere contro i PM, vogliono impedire la pacificazione. Carmelo Lo Papa la racconta pagina 15. Ancora 20 giorni col fiato sospeso, con la consegna del silenzio sulla magistratura, il tempo di ascoltare le sentenze Mediaset e Rubi attese per fine maggio. Poi tutto può succedere, tanto che, dice Berlusconi, secondo Repubblica, non vogliono la pacificazione, e dunque quel tutto può succedere vuol dire che anche il governo Letta non andrà automaticamente in crisi, ma il suo cammino parlamentare si trasformerà in un Vietnam, questo secondo Repubblica. Mentre per il giornale la linea di Berlusconi, Francesco Kramer a pagina 9, è una linea a sorpresa soft, e cioè credo nei magistrati, il Cavaliere mantiene un profilo basso rispetto al passato, rispetto agli attacchi del passato, confido in una piena assoluzione, anche se in prima pagina del giornale il direttore Alessandro Sallusti fa adombrare la possibilità che tutto questo si riverberi negativamente sull'esito del governo Letta, perché la Cassazione non aiuta le larghe intese. Questo è il titolo editoriale di Alessandro Sallusti, e tanto che conclude l'editoriale: il tutto non è ben augurante per la nuova stagione politica delle larghe intese. Come a dire, di fronte a una possibile condanna potrebbe arrivare anche un qualche problema, qualche problemuccio politico per Enrico Letta e il governo delle larghe intese. Allora, noi parleremo, come detto, oggi alle 8.15, dalle 8.15 con noi ci saranno Guido Bolaffi, che è un giornalista esperto di immigrazione, Magdi Cristiano Allam sarà il nostro ospite, poi alle 8.45 ci aggiungerà anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Parleremo della cittadinanza per gli stranieri. La Lega vuole chiedere e vuole andare in piazza contro il ministro Cécile Kyenge. Il Carroccio, secondo Libero, pronto a raccogliere qualche milione di firme contro i progetti del nuovo ministro all'integrazione. Come funziona anche nei paesi europei lo Ius Soli, lo racconta il Corriere della Sera, pagina 21. Tra l'altro, Corriere della Sera, che ha l'editoriale di Gian Antonio Stella in prima pagina proprio dedicato a questo. Le inutili forzature, racconta Stella. Cécile Kyenge, che vive la nomina a ministro con una certa euforica loquacità, è riuscita a farsi bacchettare perfino dal presidente dei medici stranieri in Italia, Fouad Oudi, il quale le ha raccomandato di muoversi con cautela, perché a mettere troppa carne al fuoco, come è noto, si rischia di bruciare tutto. Il tema centrale è quello sollevato da Napolitano quando si augurò che in Parlamento si possa affrontare la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati. Negarla è un'autentica follia, un'assurdità. Ma annunciare genericamente il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli, cioè dalla cittadinanza ereditata dai genitori a quella riconosciuta automaticamente a chi nasce qui, senza spiegare bene come e con quali regole, è un errore. Questo racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Come dire, il principio è giusto, ma forse si è esagerato un po', è andata un po' troppo avanti senza spiegare come il ministro Kyenge. Tra l'altro, non si è capito, un dubbio mi assale da giorni, perché se secondo qualcuno il ministro Kyenge non è del tutto italiana, lo sia il ministro Josefa Idem. Forse perché è un po' più chiara di pelle? Non lo so. Lo lancio a voi come dubbio. Pagina 27 di Repubblica. Per concludere, sapete che ogni giorno c'è una data speciale. Questo sono ormai 235 giorni all'anno in cui si celebra qualcosa. Che cosa? Ma insomma, il 28 aprile è la giornata mondiale per la salvaguardia delle rane. Il 26 marzo è la giornata internazionale della lentezza. Settimana prossima, il 14 maggio, è la giornata mondiale della risata. Il 29 maggio è la giornata nazionale del respiro. Meno male. E poi il 2 luglio la giornata mondiale degli UFO, il 22 luglio la giornata mondiale per il boicottaggio della Coca-Cola, il 7 giugno la giornata mondiale contro le carrozze trainate dai cavalli. Sfumiamo, sfumiamo. 24 mattino. Siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Eccoci, allora, il numero per intervenire è 800 24 00 24. Oggi vogliamo parlare di cittadinanza, un tema che è stato lanciato dalla ministra dell'integrazione Cécile Kyenge. Certo, una cosa è certa, forse il ministro Kyenge si è lasciata un po' prendere la mano con alcune dichiarazioni, è stata molto loquace in questa prima settimana, ha detto che per lei garantire il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati è un punto per il quale bisognerebbe passare dalla legge attuale attuale, vale a dire lo ius sanguinis, cioè si acquisisce la cittadinanza attraverso il sangue, quindi se sei figlio di, che ne so, un cittadino del Camerun e se sei in Italia, comunque sei camerunense quando nasci e poi devi fare il tuo percorso per diventare cittadino italiano se lo vuoi. Vorrebbe sostituire questo con lo ius soli, cioè il diritto legato al territorio. Se nasci in un territorio, quindi se nasci in Italia, sei per questo italiano. Come avviene in America, per esempio, no? Se nasci negli Stati Uniti, sei cittadino americano. Ecco, forse è andata un po' troppo avanti, come oggi racconta Gian Antonio Stella nel suo editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, annunciare genericamente il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli, cioè così in maniera senza spiegare bene come, ha generato un po' un dibattito anche impazzito. Lo ha fatto da Lucia Annunziata, per esempio, il ministro Chieng, sulla domanda appunto di passare dallo ius sanguinis allo ius soli, ha detto bisogna fare questo in poche settimane. Sentite. Il mio primo pensiero è quello che da qui a qualche settimana bisognerebbe lavorare anche con chi la pensa diversamente da me. Quindi deve lavorare alla presentazione di un progetto di legge? Sì, un disegno, esatto, di legge? Lavorare insieme con tutti. Entro quanto? Questa, già nelle prime settimane bisognerebbe che ci mettessimo a lavorare tutti insieme. Insomma, questo ha creato ovviamente il dibattito un po' all'italiana, devo dire un po' impazzita, anche con reazioni razziste mica male nei confronti del ministro. Ne vogliamo parlare con Magdi Cristiano Allam, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Presidente, buongiorno a tutti. Io amo l'Italia. Ieri sulle colonne del giornale è arrivato addirittura a chiedere, adesso ci spiegherà perché, le dimissioni del ministro. Saluto anche Guido Bolaffi, che è un giornalista esperto di immigrazione e direttore del quotidiano online West. Buongiorno, buongiorno Bolaffi. Buongiorno. Insomma, intanto Allam, perché addirittura le dimissioni del ministro Chieng, chiede? Ma io vorrei innanzitutto chiarire che io stesso sono un ex immigrato, orgogliosamente italiano da 40 anni, e che pertanto c'è assolutamente nel mio pensiero il bene comune degli italiani e degli immigrati. Quindi non c'è in alcun modo, né potrebbe esserci, come dire, alcuna traccia di discriminazione o di razzismo nei confronti degli immigrati, che sarebbe in questo caso anche nei miei stessi confronti. La richiesta di dimissioni si deve al fatto che un ministro della Repubblica che il 28 aprile al Quirinale giura di esercitare le sue funzioni nell'interesse esclusivo, sottolineo esclusivo, della nazione, e che il 3 maggio nella sua prima conferenza stampa a Palazzo Chigi dice che è italo-congolese e che non potrei essere interamente italiana, quel non potrei essere interamente italiana, come dire, si scontra con l'esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Ma lei non ci vede una rivendicazione, come dire, di, cioè appartengo, no, non voglio rinnegare la cultura da dove provengo? Io non discuto quello che è la specificità della persona. Dico che una persona che ritiene di non poter essere interamente italiana non può fare il ministro della Repubblica nel momento in cui si richiede a un ministro della Repubblica di esercitare le sue funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Quindi io non metto in discussione la persona Cecil King, ma dico che un ministro della Repubblica deve sentirsi orgogliosamente italiano al 100%. Italiano. A parte questo, cioè la richiesta di dimissioni, che cosa non va secondo lei nella questione invece di cui vogliamo dibattere, cioè ius sanguinis o ius soli, che un passaggio così ex abrupto sarebbe un po' esagerato, cioè legare tutto alla nascita sul territorio? Beh, intanto chiariamo che in Europa solo la Francia ha lo ius soli, tutti gli altri paesi hanno lo ius sanguinis, quindi non è che stiamo parlando di un qualcosa, come dire, che pone l'Italia in una situazione anomala rispetto al resto dell'Europa. La cittadinanza non deve essere un pezzo di carta, deve sostanziarsi della condivisione dei valori fondanti dell'identità nazionale, deve corrispondere al rispetto delle regole che sono il fondamento della civile convivenza. Ecco, questo è il punto fondamentale che fa sì che giustamente la nostra Costituzione attribuisce la cittadinanza a coloro che sono a tutti gli effetti parte integrante dei nostri valori, delle nostre regole e della nostra civiltà. Però non crede che sia troppo lunga adesso la procedura? Per esempio, facciamo l'esempio che tutti conoscono, Balotelli, visto che l'ha citato anche il ministro. Balotelli è diventato italiano a 18 anni, pur essendo nato in Italia da genitori stranieri. Non è un po' troppo? Allora, secondo me si possono discutere sicuramente le modalità con cui oggi in Italia si acquisisce la cittadinanza italiana. Io non ne ho mai fatto una questione quantitativa, ma qualitativa. Quando arrivai in Italia nel 1972 non mi sentivo uno straniero, perché la realtà della società italiana era talmente accogliente che l'essere immigrato all'epoca non veniva in alcun modo percepito come discriminante nei confronti degli autoctoni, tant'è vero che io non richiesi subito la cittadinanza perché mi trovavo comunque bene in Italia. Altri e all'epoca eravate in pochi, però eravamo in tutto 132.000 e all'epoca bastavano 5 anni di residenza permanente per poter ottenere la cittadinanza italiana. Io credo che si debbano sicuramente prefigurare dei parametri qualitativi in sostituzione di quelli quantitativi per definire il percorso di concessione della cittadinanza. Insomma, qualitativi, vediamo quali possono essere. Intanto, Guido Bolaffi, le chiedo questo. Lei che da tanti anni si occupa, prima a livello anche politico, ha lavorato molto nel Ministero dell'Interno, che poi è quel ministero dove si dovrebbe discutere, non il Ministero dell'Integrazione, che non si capisce bene a cosa serve. Comunque le chiedo, è andata un po' troppo oltre il ministro Kyenge? Cioè ha lanciato un sasso in uno stagno creando un dibattito che poi è già impazzito? Ma io probabilmente c'è un po' di ingenuità nel modo di... perché, sa, io non capisco di che si sta discutendo. Non riesco a capire qual è la discussione, su che cosa si discute. Non c'è un documento. Non è stata fatta nessuna discussione in sede formale. Non c'è una riunione, diciamo, di dirigenti. Il primo ministro Letta ha escluso questo come problema prioritario per l'Italia. Di che discutiamo? Guardi, intanto che un ministro faccia... Perché l'esperienza mi dice che queste sono come le discussioni di Ferragosto. Fanno rumore e finiscono nel nulla. Se si vuol veramente affrontare il problema, non si fa a botte di interviste e di controinterviste. Ci si siede intorno a un tavolo, come dicono gli americani, behind doors, closed doors, chiudi la porta, lavori in un comitato ministeriale, in silenzio, per mesi, perché la materia è delicata, complicata e difficile. Non si lancia una discussione sullo ius soli o ius sanguinis, di cui gli italiani capiscono non sa neanche che vuol dire. Appunto. Il problema in questo, mi pare che un passaggio di Magdalena abbia ragione, il problema è quello, probabilmente, se fosse stato molto più saggio, io capisco il senso delle cose, ma questo è un dibattito vecchio ormai. Sa, quando Magdalena dice che bisogna essere interamente italiani, sembra ricordare, si dimentica, la Costituzione italiana prevede per gli italiani la doppia cittadinanza. E quindi è una Costituzione che fa parte però di un mondo che non c'è più, un mondo in cui in 24 ore si può andare da un punto all'altro del pianeta. Si rimane in contatto costante via satellitare, col telefono, con la televisione. Ha reso ormai leggero il concetto di cittadinanza. Una volta c'era l'Atlantico di mezzo, per cui un italiano che andava in America non tornava più. Ma oggi non è più così. La discussione va alleggerita e resa molto più semplice. In questo senso, lui ricordava a Magdalan che quando è arrivato ci volevano 5 anni per diventare cittadini italiani. Invece la legge del 92, la numero 91, ero direttore generale con la Bonifer e lo so di che parlo, sì, per dare la cittadinanza agli italiani all'estero, questo, capovolse la realtà e portò da 5 a 10 anni gli anni richiesti per gli immigrati. Allora posso dare un consiglio banale? Sì. Leviamo la discussione sugli ius sanguinis e gli ius soli e riduciamo a questioni apparentemente tecniche. Abbassiamo gli anni richiesti a papà e mamma immigrati per diventare cittadini italiani. Prefiguriamo delle corsie, come dire, accelerate per chi è genitore di minore, anche perché, dico tra parentesi, al ministro nuovo, alla signora, ma un figlio di un immigrato che viene qui, che ha 2 anni che non è nato qui, che ne facciamo? E infatti. Attenzione. Bisogna far diventare rapidamente cittadini papà e mamma. 10, portiamole a 5, a 3, e chi ha i figli minori ha una corsia privilegiata. Lo sapete che in Italia ogni anno, mediamente, ci sono 60.000 immigrati che diventano italiani. E il paese non è un paese che gliele dà facilmente. Sì, guardate sì. Che è uno dei paesi più a maglie strette d'Europa. Ma allarghiamo quelle maglie, ma lasciamo stare i dibattiti ideologici, anche perché lo ius sanguinis e lo ius soli non esistono più. Beh, perché non dice, esistono più. Perché oggi il 97% delle persone al mondo sono cittadini per sangue. Il 3% per suolo, perché tutti, chi nasce congolese nel Congo è congolese, chi nasce italiano in Italia è italiano, il problema sono gli immigrati, siccome la popolazione immigrata è il 3% della popolazione mondiale, stiamo parlando di una popolazione di però interessante, questo è il punto da cui voglio ripartire tra un attimo dopo la pubblicità di Cristiano Allamma, è la proposta appunto di abbreviare il tempo per i genitori stranieri che sono in Italia per diventare italiani, questo ovviamente abbrevierebbe anche automaticamente e anche per i figli. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 8:36 minuti, discutiamo di cittadinanza per gli stranieri. Sì, è vero, molti scrivono, ma non è questa la priorità, tutti pensiamo alle tasse e l'IMU, ma ogni giorno parliamo di IMU e tasse, cari ascoltatori, ogni giorno dobbiamo scegliere un tema diverso, non è che ci si può svegliare al mattino, alle 7 del mattino, bere il caffè e pensare all'IMU, perché a me viene un po' il mal di testa, tutti i giorni cambiamo tema. Siamo con Guido Bolaffi, siamo con Magdi Cristiano Allamma, europarlamentare, al cui voglio chiedere una replica a quello che ha detto Bolaffi. Che ne pensa di questa proposta di abbassare il limite, tornare a quei 5 anni o 3 anni quando lei è venuto in Italia, Allamma? Sì, erano 5 anni. O abbassarli a 3, allora, dice Bolaffi. Io vorrei fare innanzitutto un discorso generale, cioè non dobbiamo commettere l'errore di immaginare che l'immigrazionismo, cioè un'ideologia che considera gli immigrati come la soluzione al deficit demografico e alla situazione occupazionale laddove ci sono delle professioni che gli italiani non vogliono fare, come la soluzione da privilegiare. Dobbiamo invece, a mio avviso, sostenere la collettività italiana, sostenendo le famiglie per favorire la natalità degli italiani e incentivando la cultura del dovere, la riabilitazione delle professioni manuali affinché i nostri giovani occupino quegli spazi. Parliamo, secondo l'Istat, di 500.000 posti di lavoro manuale vacanti oggi in Italia. Detto questo, è evidente che il percorso di integrazione, laddove noi lo poniamo sul piano della qualità, che significa conoscere adeguatamente la lingua italiana, rispettare in modo rigoroso le leggi dello Stato e le regole fondanti della civile convivenza, conoscere la cultura italiana, sentirsi parte integrante di un processo di costruzione e non di distruzione, a quel punto ci sono effettivamente i requisiti che corrispondono ad una cittadinanza attiva. Lei non abbasserebbe automaticamente a dire, come dice Bolaffi, agevoliamo gli stranieri che sono in Italia, riportiamola a 5 anni come allora, o addirittura a 3 anni, e poi... Non è un fatto di quantità, perché io ma che vorrebbe dire fare degli esami di cultura, degli esami di lingua a chi lei sottoporrebbe anche a questo la cittadinanza? Allora, gli esami sono, diciamo, una verifica, l'importante è la sostanza, perché io ho conosciuto degli immigrati che sono in Italia anche da 40 anni e che non parlano la lingua italiana. Ci sono dei casi purtroppo fatti emergere dalla cronaca nera, ovviamente non bisogna generalizzare, ma lo dico solo come esempio di persone a cui stavamo dando la cittadinanza italiana perché erano in Italia da oltre 10 anni e che abbiamo scoperto che, come dire, concepiscono atteggiamenti violenti nei confronti delle figlie perché non condividono quelli che sono valori, i valori non negoziabili della sacralità della vita, della pari dignità tra uomo e donna. Però mi scusi, vorrei coinvolgere questo Bolaffi quando ha detto l'immigrazionismo. Non è che Bolaffi, Magdi Allan vuole, uso questa immagine, fermare l'acqua con le mani, cioè l'immigrazionismo, ormai è il mondo così, la gente si sposta, e però Magdi Allan dice l'immigrazionismo non deve essere la soluzione anche ai nostri problemi economici. Aiutiamo la collettività italiana, facciamo in modo che i giovani facciano quei lavori che non fanno più. Non c'entra nulla con quello di cui stavamo discutendo. Io non ho detto che nella mia discussione, guardi, discutere di immigrazione e discutere di cittadinanza sono due cose diverse. Sì, certo. Ci può essere, si può discutere di cittadinanza. Però se uno aiuta, sì, certo, però se uno aiuta, voglio dire, la collettività italiana a fare figli, eccetera, non c'è più bisogno di immigrati. Per diventare cittadini italiani, mi dispiace che quello che ha detto anche Dall'Anno, perché insomma è aria fritta, stavamo facendo diventare italiani, guardi che per diventare italiani bisogna fare una domanda, bisogna aspettare anni, quindi ci vuole un atto di volontà, non c'è un automatismo, io esattamente di questo stavo parlando. Cioè nella discussione di questi giorni vedo un'astrazione tra un rigido astratto automatismo e un rigido astratto chiusismo. Di che parliamo? Che forse il ministro in questo forse ha sbagliato, come scrive oggi Gian Antonio Stella, cioè ha fatto profilare l'idea che nel giro di qualche settimana si potrebbe passare allo ius soli, cioè nasci qua track italiani. Ma lì c'è un'ingenuità di chi non ha fatto politica e probabilmente se la sono mangiata i giornali. Ma voglio dire, detto questo, è per questo che dico freniamo la discussione. Freniamola e riportiamola con i piedi per terra. Allora, uno, non se ne farà nulla, così tutti sono tranquilli, anche quelli che i suoi ascoltatori. Anche i leghisti poi no, si sono, che già tuonano. Ma non è questo il punto, perché, guardi, non c'è peggior cosa in queste materie che trasformarle in un dibattito ideologico. Guardi che le questioni sono più semplici ad un tempo più complicato di quello che uno può apparire. Dipende. In Italia, oggi, se uno vuol diventare cittadino italiano, lo deve aspettare, un immigrato deve fare 10 anni. Lasciamo perdere per un momento gli esami all'italiano di cui parla Magdi Allan, lui ha un perfetto italiano, io ho conosciuto perfetti italiani che parlano malissimo italiano, quindi non scherziamo su questo, sono questioni, sono dibattiti che lascio il tempo che trova. Se uno vuol diventare italiano vuol dire che deve esprimere un atto di volontà, quindi non dobbiamo automaticamente far diventare uno che nasce in Italia italiano anche se non lo vuole. No, ma è chiaro, si discute e lei ha proposto quello che dopo allora quest'atto detto, di volontà si abbassi il processo, cioè la lunghezza del processo. Renda, per chi vuole è più semplice la strada, anche perché, e qui vorrei rispondere a Magdalena, siamo attenti, stiamo continuando a parlare di un mondo che non c'è più, quello di cui lui parla. Guardi che è uscito uno studio pochi mesi fa, da uno studio svedese che dice che non c'è nessun miglior commesso, come dire, viaggiatore delle merci di un paese che i figli degli immigrati nati in quel paese che tornano verso i paesi da cui sono venuti i propri genitori. Un cinese che nasce in Italia venderà in Cina i prodotti italiani molto meglio di qualunque miglior studente italiano di cinese, chiaro? Allora a quel punto ci conviene tenerli fuori dalla porta. Se vogliono diventare italiani, rendiamogli la vita semplice. A papà e mamma fanno domanda dopo tre anni, non hanno carichi penali, non hanno commesso reati, non hanno rubato la frutta al supermercato, il figlio va a scuola, verifichiamo che il figlio va a scuola e non sia uno che sta in mezzo alla strada, e questi rendiamolo più semplice. E su questo punto concreto, sul quale Magdalena vorrei una sua risposta conclusiva, poi devo chiudere. Perché su questa cosa concreta, cioè rendere la vita semplice a genitori che non commettono reati, che sono qui tranquilli in Italia, eccetera, di diventare automaticamente cittadini italiani? Risponda. No, noi dobbiamo innanzitutto salvaguardare, come dire, gli italiani nella loro quotidianità, nella loro esistenza, perché se dovessimo, come dire, applicare quello che ha appena detto l'amico Bolaffi, noi ci trasformeremmo in una colonia di cinesi, in una colonia di immigrati. Le frontiere aperte senza, come dire, alcun limite, significherebbe questo. Ma noi dobbiamo investire nei paesi di origine degli immigrati per creare lì delle condizioni di vita dignitose, affinché non siano costretti a emigrare, possano scegliere di emigrare, ma non siano costretti a emigrare. Ma la nostra priorità deve essere quella di assicurare che gli italiani stiano bene. Ma questo l'ha detto chiaramente. Abbiano tutto ciò che serve loro e soprattutto però, i giovani. Però mi scusi Allam, se sono cinesi che vogliono diventare italiani, lei cosa vede? Cioè che quindi volontariamente scelgono di diventare italiani, lei cosa vede in questo? Una minaccia? Non possiamo permettercelo, noi parliamo di decine di milioni di persone, noi non siamo una landa deserta che possiamo accogliere indiscriminatamente tutti, ci deve essere una regolamentazione sulla base di quelle che sono delle necessità effettive e della nostra capacità di accoglierli. Ma guardi che secondo se un cinese se vuole stare in Cina, se ne sta in Cina, non è che viene in Italia giusto per prendere la cittadinanza italiana, no, per colonizzarci. È costretto dalla povertà, è costretto dalla povertà, in questi casi o dalle guerre, in altri casi, alcuni casi conflitti. Comunque il tema è molto aperto. Io per il momento vi ringrazio, Magri Cristiano Allam, per essere stato con noi, Guido Bolaffi. Nell'ultima parte di 24 Mattino lo voglio salutare, poi dopo il traffico tra un minuto sono con lui e magari partiamo proprio anche da questi temi. Siamo col sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno. Eccoci qua, allora, con Flavio Tosi, sindaco di Verona, della Lega. Sindaco, intanto prima abbiamo discusso e discutevamo, come ha sentito forse in coda, di cittadinanza degli italiani. Secondo lei il ministro Kyenge è stata troppo esagerata nello spingersi oltre su questo dibattito della cittadinanza? Ma ha toccato dei temi che non sono prioritari nemmeno per la stessa comunità straniera, da una parte. E poi c'è un aspetto tecnico dall'altra, mi spiego, non sono prioritari perché io sono sindaco, fra l'altro ho le deleghe all'immigrazione, all'integrazione e quindi mi confronto direttamente con le comunità straniere ed è evidente che i bisogni che esprimono le comunità straniere, per una città che ha il 14% di stranieri residenti e quindi una popolazione significativa e fra l'altro molto ben integrata, e quello che ti chiedono è la casa, il lavoro, la scuola per i figli. Non è che vengo lì a chiedere la cittadinanza anticipata, la esprimono come una necessità. E questo punto, per questo dico, forse è andata a parlare di un tema che non è prioritario per la comunità straniera e ha solo sollevato un polverone dal punto di vista delle polemiche. Poi c'è un aspetto tecnico, quello legato allo Ius Soli, tant'è che lo Ius Soli in quasi nessun paese del mondo occidentale è applicato tranne gli Stati Uniti e pochi altri, e la Francia, ma per motivi precisi, certo, per la loro storia. Ecco, ma dicevo, il problema tecnico qual è? Che oggi chi ha la carta di soggiorno o di lungo periodo, secondo la proposta del ministro, i figli di queste persone, nel momento in cui nascono qua, potrebbero diventare cittadini dal momento in cui nascono qua. Può essere il caso, perché lo prevede la legge, che fra l'altro la legge prevede questo più o meno in tutto il mondo occidentale, che perché il genitore perde il lavoro, perché ci sono dei motivi particolari, per perdere il lavoro, 6 mesi di restare senza lavoro, ci sono una serie di procedure, perde il diritto a restare qua. Diventa clandestino. Il paradosso, e infatti il ministro vorrebbe cambiare anche la Bossi-Fini, che prevede questo. Ho capito, allora quello sarebbe, vuol dire il sistema per allargare in maniera indiscriminata la concessione della cittadinanza. Guardi, non è un fatto di razza, di razzismo, frega niente, io sono molto pratico. Siamo in una situazione di crisi drammatica, che non ci sono posti di lavoro, che il sistema sociale è lì che salta, perché fra un po' se andiamo avanti così salta il sistema sociale, si rischia solo di caricarlo ulteriormente e quindi di portarlo più velocemente verso collasso. Senta, tra l'altro lei ha detto io non sono razzista, io la conosco, so che è assolutamente così, però ci sono state delle dichiarazioni di alcuni leghisti, l'ultimo ieri un consigliere a Prato ha detto questo nero di seppia, l'ha definito il ministro Kyenge, ma perché c'è ancora questo velato? E poi sempre derubricato a battuta. Perché secondo me ci vuole rispetto per le persone. Il dibattito politico è dibattito politico, per scontrarti anche vivacemente sotto il piano politico, il rispetto personale lo si deve a chiunque, comunque, al di là della razza, della religione, dell'orientamento sessuale, mai andare a intaccare la sfera personale. Se tu fai una battuta del genere offendi personalmente una persona. Comunque a lei non dà fastidio l'idea che ci sia un ministro che dice mi sento italo-congolese? No, vabbè, insomma, è assolutamente comprensibile, cioè, non è lì, non vedo il problema. Il problema è, secondo me, che ha avuto un approccio, anziché pratico, ai problemi delle comunità straniere, ha avuto un approccio ideologico, polemico, che non va da nessuna parte. Allora, mi faccia chiedere questa cosa sull'IMU. Lei è sindaco, però fa parte anche di questo... non è che appoggiate il governo dell'Agghentese, però siete, c'è questo governo un po' strano. Lei si sente più sindaco e quindi vorrebbe questi soldi indietro dell'IMU, anche perché non vorrebbe che venisse sospesa, perché altrimenti i comuni come fanno con le coperture? Oppure si sente più di centrodestra a dire no, abbiamo fatto una promessa, l'IMU va tolta? Ma allora, il punto anche qua è sempre quello, non bisogna affrontare la cosa demagogicamente, ma con praticità. Bisogna capire il modo tecnicamente corretto di uscirne, perché la sospensione della rata, impedendo ai comuni di incassare una tassa che è fondamentale per far andare in avanti il comune, sospenderla tout court senza copertura è pericolosissima. Se da qua a giugno viene trovata la copertura, dopodiché, e questo è il primo punto, trovare la copertura in maniera tale da non mettere i comuni in ginocchio. Ma come? Non mettendo certo un'altra tassa? Cioè il problema è quello. Uno, che non devi mettere altre tasse, perché è chiaro che questo sarebbe ridicolo, perché togli da una parte e ti prendi dall'altra. Taglia la spesa dello Stato così importanti nel giro di 3 mesi, anzi di 1 mese, è improbabile che ne vengano praticati, e alla fine per trovare una quadra faranno debito, il che non è forse la soluzione migliore. Cioè, aumentiamo il debito pubblico per... In prospettiva dovrebbero comunque coprire con tagli alla spesa dello Stato, perché non puoi diminuire le tasse, aumentare il debito, perché già stiamo sull'orlo di far saltare i conti pubblici e ci avviciniamo ulteriormente. E questo è un aspetto. L'altro è come faranno, cioè nel senso che sarebbe sbagliato che facciano una restituzione paro paro a tutti i comuni senza guardare quanto e a chi, perché magari uno ha l'aliquota più alta e quindi è meno virtuoso, sì, e quindi gli danno di più, e uno che magari è stato bravo ad averla bassa non gli dà niente. Dovrebbero, secondo me, invece tarare sul numero di abitanti una quota di ridistribuzione che sia appunto equa rispetto agli abitanti dei comuni e alle case posseduti. Comunque lei da sindaco la vive con una certa apprensione. Comunque sono preoccupato perché fino adesso è ormai qualche anno, non è solo il governo Monti, è qualche anno che i bilanci non sai mai come farli, perché da Roma arriva di tutto. Faccio fare un'ultima battuta. Berlusconi, col quale lei è amico a metà, lei lo vedrebbe presidente della Convenzione per le Riforme? Io francamente, ma non perché sia del mio movimento, ma una figura, per dire, come dico Giancarlo Giorgetti, perché è una persona che ha fatto parte dei 10 saggi che il nostro Presidente della Repubblica ha indicato. E poi perché è un po', diciamo, la cosa alla quale la Lega da sempre tiene di più, e tutti tutto sommato. Ma non ha fatto vice ministro dell'economia? Prego? L'hanno fatto vice ministro dell'economia, no? È lui, sì. No. È Alberto Giorgetti, omonimo, ma veronese, area PDL, mentre invece Giancarlo è Lega Varese. Ah, quindi lei vorrebbe Giancarlo Giorgetti, questo è il nome, è il nome della Lega Varese. Va bene, e intanto la ringrazio, Sindaco, per essere stato grazie con noi. Lei. Sindaco di Verona, Flavio Tosi della Lega. Ci fermiamo qui, potete riascoltare tutto su radio24.it, il nostro sito. Metteremo la foto anche di Vincino con il busto di Giulio Andreotti, come ci ha detto alle 6.30, io non ci volevo credere, un busto di marmo di Giulio Andreotti, ce l'ha raccontato questa mattina molto presto. Voi debosciati d'Italia non eravate qui svegli, ma noi andiamo in onda dalle 6.30, ricordatevelo, con Miriam Lucchetti in redazione, con Elisabetta Fuscori in redazione, Alessandro Longoni e Carmelo Lauricella in regia. Questa settimana ci segue. Saluto anche Anita Palizza in redazione. E poi che dire, basta, ci troviamo domani 6.30. E la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 mattino.